I numeri innanzitutto: 1835 i contagiati, ma di questi 149 sono guariti e sono 52 i morti trovati positivi al coronavirus. Intanto in Cina i contagi scendono ai minimi da un mese e mezzo. Gli Stati Uniti annunciano controlli su tutti i voli provenienti da Italia e Corea del Sud, mentre il vicepresidente Mike Pence fa sapere che entro settembre potrebbe esserci un vaccino. Si muovono le banche centrali che preparano interventi coordinati. Delirio intanto nel mondo del calcio, dove questi due giorni di decisioni mai definitive, porte aperte, porte chiuse, rinvio, non rinvio, si chiude per ora con il presidente dell'Inter Zhang che dà del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. C'è altro? Sì, c'è molto. C'è quello che succede intorno alle coste sull'isola di Lesbo, in Grecia, dopo la riapertura delle porte decisa dal presidente turco Erdogan. Ci sono i 120.000 alla frontiera, un ragazzo siriano morto nella calca, un bambino annegato in un naufragio, la guardia costiera greca che spara su un gommone, un'isola al collasso. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori. In questo martedì 3 marzo sono le 6:30, inizia questa nuova puntata di 24 Mattino con Carmelo Lauricelle in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione come sempre, con voi. 349-238-6666 è il numero, lo sapete, per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio. La vostra voce è, fatecela sentire. Anche le vostre cronache, se volete, da queste ore con le scuole chiuse, con cosa fare con i figli. Le scuole chiuse, le quarantene, le semi-quarantene. Raccontateci un po' come stanno andando le cose, come la state vivendo e anche come la pensate, naturalmente. Siamo anche in diretta su Facebook. La pagina è quella di 24 Mattino, ci trovate su Twitter, ovviamente su Instagram. E là l'istruzione, per così dire, è diversa. Se volete mandateci una foto del vostro risveglio, di quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, insomma, il risveglio degli ascoltatori di Radio 24. Oh... Come si diceva, è difficile parlare di altro in queste ore, oltre che del tema coronavirus, per tutte le implicazioni che ha, naturalmente. Detto ciò, se non fossimo in questa situazione, con queste misure di prevenzione straordinarie prese, di certo la nostra attenzione sarebbe concentrata su quello che sta succedendo ai confini dell'Europa, ai confini greci dell'Europa, con quel ricatto al quale ormai da un bel po' di tempo siamo sottoposti, quello del presidente turco Erdogan, che ha chiesto soldi in cambio del contenimento dei profughi dalla Siria, che torna a farsi sentire. Cosa vuole? Forse chiede altri soldi? Non si sa, dice di aver rifiutato 1 miliardo dall'Europa. Il quadro però è questo. Sentiamo qualche suono, Carmelo, vai. Sono le scene dei migranti respinti, a volte con la violenza. C'è un video che mostra la guardia costiera greca che spara ai lati di un gommone che sta arrivando. C'è il naufragio, un bambino morto. Questo è. Mentre siamo presi, ovviamente, nelle nostre cose, nella vicenda del coronavirus, nel guardare al fatto che potrebbero esserci altri focolai, come racconta oggi il quotidiano La Stampa. Del resto è di poco fa la notizia che ci sono 7 nuovi contagi in Cina, nella zona dello Zhejiang, lo dice la Commissione Sanitaria Nazionale, e sono 7 cittadini cinesi tornati dall'Italia e lavoravano tutti nello stesso ristorante di Bergamo. E quindi l'attenzione è massima. Attenzione concentrata ovviamente in Lombardia, dove per esempio l'assessore Mattinsoli si è scoperto che è positivo al coronavirus. Hanno fatto il tampone a tutta la giunta. Dice lui, è un'altra sfiga, ma passerà. D'altra parte io l'intenzione di prenderla non ce l'avevo proprio. Mi è capitato, si vede che dovevo finire in bellezza questo periodo con un'altra sfiga e adesso spero di chiudere qui. Comunque grazie per i messaggi di solidarietà, perché in questo momento non dispiacciono. Ciao ragazzi! L'assessore Gallera annuncia naturalmente il tampone a tutta la giunta, no? Purtroppo nelle prime ore di questa mattina, cioè soltanto pochi minuti fa, abbiamo avuto una notizia, cioè che un nostro collega, l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinsoli, è risultato positivo al coronavirus e quindi, così come è previsto dai nostri protocolli, i membri della giunta si devono sottoporre al tampone per verificare la positività o la negatività. Poi alla fine non è positivo nessuno, quindi bene così, però insomma il fatto c'è. E c'è questo appello della Regione Lombardia agli over 65, state a casa. Ribadiamo a tutti coloro che hanno più di 65 anni la necessità di rendere estremamente rarefatte la loro vita sociale. Per 15 giorni state il più possibile al vostro domicilio, state a casa, riducete i contatti con le altre persone, perché siete la fascia più debole che può avere le conseguenze più critiche dal contagio con il coronavirus. Cos'altro sentiamo? Beh, c'è tutto il fronte economico. Qua tenete presente che i banchieri centrali del G7 si sono sentiti ieri, ovviamente in videoconferenza, manco a dirlo, anche perché comunque è difficile metterli insieme, prendere tutti gli aerei e farli arrivare, insomma. Però in questo periodo la videoconferenza è particolarmente apprezzata per ovvi motivi, e stanno pensando a una serie di interventi coordinati. Il governo, per conto suo, ragiona su una manovra da 3 miliardi e 600 milioni di euro. Sentiamo il viceministro Misiani. Noi vogliamo discutere, e lo stiamo facendo con le parti sociali, le priorità per aiutare l'Italia a reagire e a ripartire. Il governo ha annunciato una manovra da 3 miliardi e 6 che verrà approvata entro questa settimana. Siamo il primo paese europeo a farlo e stiamo affrontando con tutte le nostre possibilità un'emergenza che rischia di avere conseguenze negative anche per l'economia. C'è tutta la polemica, questi soldi non bastano, ci vuole più deficit. Tra l'altro vi dico, alle 8.35 con Maria Latella avremo ospite il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, col quale parleremo anche e naturalmente prevalentemente di questo, come è naturale, degli effetti economici del coronavirus. Parlavamo dei 7 contagiati che venivano da Bergamo, ci fa notare un ascoltatore, e domenica scorsa che a Lecce c'erano i bergamaschi, come la mettiamo? E questo è l'altro fronte del delirio completo del mondo del calcio, delirio completo, fatemelo dire, non è una questione che ha a che fare, guardate, non voglio entrare nel tema, campionato falsato, campionato non falsato, cosa si fa, cosa non si fa, e però mi sembra il paradigma, lo specchio, no, di come siano i meccanismi decisionali nel nostro paese, cioè una follia. Quindi cosa fai? Decidi prima che Juventus si gioca a porte chiuse, poi decidi di spostarla a lunedì, no, facciamo lunedì a porte aperte, poi dici no, la facciamo a maggio così riapriamo le porte, no, poi la facciamo il lunedì della settimana successiva a porte chiuse, e l'Inter che dice no, non lo voglio fare, e poi dice di sì, e poi non si capisce bene, fanno una riunione con il presidente della Lega Calcio, nella quale c'è anche l'amministratore delegato dell'Inter, Marotta, prendono una decisione in quattro sostanzialmente, c'era anche Lotito dentro, dopodiché nella notte il presidente dell'Inter Zhang dice il presidente della Lega Calcio è un pagliaccio, lo scrive su Instagram. Io non lo so, veramente. Nel frattempo stasera la Serie B gioca tutta gioca la Serie B, e l'ex Serie C, la Lega Pro, invece rinvia la giornata di campionato. Ma se ne può capire qualcosa, per favore, e non per il calcio, proprio per dare un'idea di un paese che gira, che ha dei meccanismi decisionali normali, no? scusate se mi scaldo, però insomma. Vabbè. Giulia Zonca della Stampa, ciao Giulia, eccoci. Buongiorno. Eccoci, ma sono letteralmente impazziti tutti, mi pare. Il punto è che erano già pazzi prima e noi ce ne accorgiamo adesso, è questa il vero scarto, perché, e lo dico senza alcun compiacimento nella constatazione, il mondo del calcio vive su un altro pianeta, si crede su un altro pianeta, e queste sono le conseguenze, che poi fatica ad adattarsi a una realtà tanto più complessa come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Si guardano sempre tra di loro e non si rendono mai conto che fuori c'è un mondo. Eh sì, effettivamente. Detto ciò, appunto, ripeto, mi sembra, Giulia, un discreto specchio, no, di come funzionano i nostri meccanismi decisionali. Del resto, in questi giorni, sulla questione del coronavirus, la gestione tra governo, regioni, comuni, per fortuna che non ci si sono messe di mezzo le province, è stata abbastanza strana, tanto da costringere lo stesso esecutivo a scrivere espressamente tutte le ordinanze dei sindaci non sono valide se non si conformano, una cosa normale, se non si conformano alla legge dello Stato, cioè alle cose sarebbe, che diciamo noi a livello centrale, però devi scriverlo perché in Italia è il paese nel quale devi scrivere, è fatto divieto assoluto, quindi insomma, no? Viviamo l'Italia da sempre con una banalità, il paese dei campanili, e questo restiamo, forse fatichiamo ad uscirne, però devo dire che in questo periodo di veramente grande confusione, e non può essere altrimenti perché non hanno altra scelta se non navigare a vista, cioè questa volta non è mala gestione, è proprio difficoltà ad affrontare un problema completamente sconosciuto con dinamiche che ogni giorno evolvono e cambiano. Per cui, stante una situazione di base purtroppo davvero ingestibile, esce anche questa strana ansia. Sono anni che parliamo di globalizzazione, che diciamo di essere connessi, che diciamo di essere tutti attaccati e collegati, e poi improvvisamente l'Emilia-Romagna può fare una cosa, la Lombardia no, il Veneto no, come se esistesse un modo così di definire un confine fisico di diffusione del virus. Sì. Temo che non funzioni così, ovviamente, e giustamente possono chiudere i focolai e cercare di fare delle cinture in altri posti, però poi ancora sul calcio si riflette, non che sia la cosa più importante del mondo, ma lì si riflette più evidentemente appunto questa cosa, possono entrare i tifosi di certe regioni, i tifosi di altre regioni no, i piemontesi sì, i lombardi no, come se metà dei piemontesi non facesse Lombardia-Piemonte tutti i giorni per andare a lavorare. Ah certo, regolarmente, no, tra l'altro adesso che il Freccia Rossa o Italo, insomma, diciamo, l'alta velocità ti porta da Torino a Milano in un'ora, cioè, c'è un sacco di gente che vive a Torino e lavora a Milano, quindi insomma, no? È proprio che forse un po' ci appelliamo anche a delle certezze che non lo sono, così per una sorta di coperta di Linus o per non bloccare tutto, perché bloccare tutto poi diventa davvero a parte spaventoso, ma anche un punto di non ritorno probabilmente per molte cose, per cui cerchiamo di mettere appunto questa cintura, che è una cintura sanitaria, ripeto, legittima e forzatamente confusa data da una situazione ingestibile, ma poi anche questa volontà di definire l'indefinibile. Sì, decisamente. Allora, tra l'altro, noi siamo ovviamente molto concentrati sull'Italia, come è naturale, no? Perché la questione ci riguarda, no? Ci riguarda strettamente. Walter Ricciardi, l'OMS e attuale consulente del governo per la questione, dice: occhio che Germania e Francia vanno verso scenari simili. No, un altro evento sfortunato si è verificato in Germania, perché nella Nordrhein-Westfalia, diciamo, il paziente numero due tedesco è andato a un carnevale, cioè a una manifestazione di massa. Il carnevale in Germania è celebrato da tantissime persone, per cui si pensa che questa persona, oltre che diciamo oltre che 600 ne ha contagiate, per cui io credo che in Germania vedremo, diciamo, una situazione peggiorare nel prossimo futuro, un po' diversa, ma comunque anche secondo questa strada è avviata la Francia. Ricciardi che un po' se la prende con Lombardia e Veneto per come hanno gestito le cose, non è la prima volta che lo fa, però torna a farlo. Alcune regioni, in particolar modo la Lombardia e il Veneto e in parte anche le altre regioni, non hanno seguito le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dicevano che i tamponi andavano fatti soltanto ai soggetti sintomatici, che quindi avevano febbre, tosse, congiuntivite, e un altro dei fattori di rischio, o per contatto, nel senso che erano stati a contatto con un malato, o per provenienza geografica. Il fatto che noi abbiamo fatto tanti tamponi agli asintomatici ci ha portato da una parte a sovrastimare, nel senso questi che comunque sono test positivi, ma negli altri paesi che hanno fatto soltanto quelli sintomatici, da parte loro questi pazienti non li hanno visti e quindi loro probabilmente ce n'hanno molti di più di quelli che denunciano. E poi ricordiamoci una cosa, lo dico anche per dire, insomma, senza sottovalutare, però manteniamo la calma, no? Manteniamo la calma, perché nel giro di una settimana siamo passati dall'allarmismo dell'inizio della settimana al no ragazzi, tutto tranquillo, a posto, solamente un'influenza, non c'è problema, a oggi che poi si ritorna in tensione, eccetera eccetera. Ci ricorda Galli del Sacco di Milano, un altro virologo importante che sta intervenendo molto in questi giorni con molta lucidità e anche con molta chiarezza, devo dire il vero, che l'infezione, cosa che peraltro Ilaria Capua sta dicendo da un mese, è presente da tempo in Italia. Quindi quelli che vediamo adesso non sono nuovi contagiati, o almeno non lo sono necessariamente, non sono nuovi positivi. Sono persone che presumibilmente l'hanno preso nei giorni scorsi, non si sa quando esattamente. Sentiamo Galli. Credo che l'infezione abbia circolato nelle zone definite come rosse sotto traccia, cioè non prevista, non vista, non definita ed accertata, per un periodo sufficientemente lungo a far sì che tutti insieme abbiano sviluppato sintomi coloro che si sono infettati un certo tempo fa, una, due, tre settimane prima della comparsa dei sintomi più eclatanti, più importanti. Traffico. Mattino. Luciano scrive, mi scrive: caro Simone, basta con questo virus, parliamo anche di economia e lavoro, di Alitalia, Ilva, Whirlpool, però capisci Luciano che non sono una variabile, il virus non è una variabile che non ha un impatto su tutto questo. Allora, quando si ragiona di Alitalia, per esempio, del futuro di Alitalia, a chi venderla, a chi non venderla, beh, bisogna ricordare quello che sta succedendo e che rischia di succedere alle compagnie aeree in questo momento a causa del coronavirus. E quindi gli aerei che viaggiano vuoti, i blocchi dei voli verso l'Italia. Quando parliamo di Ilva, pensiamo al fatto che se arriva una recessione globale, come qualcuno sta ipotizzando, anche l'acciaio non è che ne è esente. Quando parliamo di Whirlpool, altrettanto, E quindi, è vero, questi temi restano centrali, così come resta la solita Italia, no? Dove arriva da ieri il nuovo allarme viadotti, perché poi non abbiamo messo mano alle cose giuste negli anni, con il crollo nel Senese e lo stop sull'A6. E però è chiaro che questa variabile è molto importante per tutto questo, com'è naturale. È una variabile che è più che una variabile a Codogno, e siamo in linea con il sindaco Francesco Passerini. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno, grazie. Come vanno le cose? Sicuramente si sta andando avanti, si sta facendo sacrifici soprattutto all'operazione per questa situazione che, insomma, diciamo che dopo 12 giorni comincia a essere sicuramente una situazione importante, ecco, soprattutto per quella, come avete detto voi prima correttamente, proprio per il mondo produttivo che è fermo e immobile già da ormai da 13 giorni. Tutto ovviamente a questo punto, cioè, ossia dai servizi locali alle aziende. Abbiamo avuto ospite l'altro giorno una persona dalla MTA che ci raccontava appunto del problema di far ripartire l'azienda, un'azienda a 600 dipendenti, tra l'altro con il paradosso di aver aperta la sede a Shanghai e chiusa quella di Codogno, perché è a Codogno e quindi inevitabilmente è così, insomma, no? Quindi i due fronti, quello dei servizi locali naturalmente e quello delle aziende. Dei servizi locali che da quando c'è stato il decreto di chiusura praticamente sono stati garantiti grazie anche soprattutto la collaborazione tra i comuni, perché questa è sicuramente stata una situazione che nessuno in Italia, quantomeno dal dopoguerra ad oggi, ha mai vissuto o comunque mai sperimentato, anche perché chiaramente con una situazione di blocco nascono tutta una serie di esigenze per i cittadini, che grazie ai volontari, che tengo veramente a ringraziare, si sta cercando di dare, di non abbandonare nessuno e di non lasciare nessuno. Discorso altrettanto importante è quello proprio delle attività, delle nostre attività produttive, perché all'interno della zona rossa ci sono 3.400 attività. Senta Paseni, siete soddisfatti di come sta agendo il governo con voi oppure no? Beh, insomma, sicuramente, al di là che io non ho mai neanche ricevuto una chiamata per sentire come stavamo da parte del governo, una grande presenza di Regione Lombardia, e questo va assolutamente riconosciuto, ma ad oggi non, il governo più del decreto di chiusura, diciamo, purtroppo non abbiamo visto né sentito. Nemmeno una telefonata, cioè nemmeno un sottosegretario che ha detto pronto Passerini, zero. Come state? Zero. Vabbè. Assolutamente, neanche un sottosegretario, ecco, su questo ci tengo. Eccoli. Ascolti Paserini, vi siete fatti un'idea di quello che può succedere? Perché, allora, dato che il numero di contagi aumenta un po', perché probabilmente la gente è già contagiata prima, ma insomma, forse no, insomma, io non so se quanto sarà il tempo di chiusura, quanto durerà questa zona rossa? Vi siete fatti un'idea? Speriamo il minor tempo possibile, adesso sicuramente fino a domenica 8, e aspettiamo, sperando appunto che questo sistema di contenimento, soprattutto della zona rossa, abbia portato i suoi frutti, abbia portato i suoi risultati. Vedremo un po' dunque. Gli abitanti come stanno, Passerini? Sicuramente la stanno vivendo con grande responsabilità e grande serietà, e su questo veramente voglio... No, perché glielo dico Passerini, è un po' qualcuno di noi se li immagina, dice vabbè, insomma, tutto sommato sono tre settimane di vacanza, se ne stanno là, camminano, passeggiano, vanno a correre, eccetera, eccetera. Ovviamente non è così. Diciamo che non è così, purtroppo non è così, perché sicuramente l'isolamento, le limitazioni da quelli che sono i movimenti, da quelli che sono anche gli stessi servizi, cioè non avendo un servizio pubblico, insomma, le giornate sono anche molto molto vuote, soprattutto per la stragrande maggioranza della popolazione. Certo, quello che è anche un carattere, un senso contraddistintivo della nostra gente, che la stanno portando avanti veramente con sacrificio, con rispetto di quelli che sono i dettami, appunto, che le autorità ci hanno emanato. Chiaramente, ecco, non è un territorio che può diventare il capo espiatorio di tutti i problemi del paese sul coronavirus. È un territorio che sta combattendo il virus. Le posso dire che comunque anche a livello di contagio, da quelli che sono i numeri, sicuramente credo il fenomeno sia stato contenuto, comunque sì. si stia andando verso una lenta, quantomeno nella zona lodigiana, di una stabilizzazione. Incrociamo le dita e sicuramente, cioè, ci stiamo dando tutti una mano proprio per superare questo momento, che sono sicuro che supereremo, ecco. Però sicuramente è un momento in cui tutti stiamo stringendo i denti, perché sicuramente non è un momento facile. Giustamente. Impressionante, Giulia Zonca, il fatto che in realtà non si sa quando finirà questa vicenda. Ma cominciano adesso in Cina, dopo mesi, dopo l'inizio di gennaio in cui esplosa questa situazione, ad avere un minimo controllo, che poi è la parola chiave per riuscire alla fase, insomma, per passare alla fase critica. Noi evidentemente siamo ancora nella fase critica e con molte variabili da affrontare. Mi sorprende moltissimo appunto questa cosa che ha detto adesso il sindaco, che nessuno del governo si sia fatto vivo, anche perché prima, nella testimonianza precedente, abbiamo sentito l'assessore dire che la cosa che più gli faceva forza era la solidarietà ricevuta. Insomma, è una fase in cui le parole sono importanti, molto importanti, bisognerebbe sceglierle bene, usarle con le persone che contano. Esatto, e anche un colpo di telefono serve. Allora, chiudiamo qua intanto, grazie a Giulia Zonca e La Stampa, grazie. Francesco Passerini, sindaco di Codogno, per essere stati con noi. Chiudiamo spostandoci a Tenerife molto rapidamente, sentiamo 20 secondi di questa donna, di questa italiana che è là con il marito, due figli, bloccata là e in una situazione oggettivamente complessa. Sentiamo. Molti di voi pensano che una quarantena in un 4 stelle in Spagna sia una cosa carina. Allora, non è assolutamente così. Stiamo malissimo, vogliamo tornare a casa. Ho due bambine, se fossi da solo con mio marito forse avrei preso come una vacanza, come molti di voi credono. Ma noi stiamo male, le mie bambine non mangiano, hanno incubi. La piccolina di 21 mesi ha passato la notte a grattarsi, a piangere. Così è, e dice: la Farnesina non mi risponde più, il Ministero degli Esteri non mi risponde più, gli inglesi li stanno riportando a casa, gli fanno tutti i tamponi e poi li riportano a casa, e dice: fatemi fare la quarantena a casa, cioè non mi faccio vedere, intubatemi, portatemi chiusa dentro da qualche parte, però riportateci a casa. Raccogliamo questo appello. GR24, ci ritroviamo subito dopo la rassegna stampa.